me il tuo amore, cresci in me, oh mio Signore, cresca in me l'anima mia, cresca in me e falla tua. Cresci in noi il tuo amore, cresci in noi, o Redentore, cresca in noi la grazia tua. Cresca in noi e facci tua. Cresci in noi il tuo amore, cresci in noi, o Redentore, cresca in noi la grazia tua, cresca in noi facci tua. Cresci in noi.